Letture di Radio 24. Nuovo episodio nella vicenda di Ruby Rubacuori. Secondo la procura di Milano, la giovane Karima El Marug, allora minorenne, avrebbe trascorso alcuni weekend piccanti nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore tra il febbraio e il maggio 2010. Il premier è stato iscritto nel registro degli indagati per prostituzione minorile e concussione. L'indagine è nelle mani del PM di Milano, Ilda Boccassini. Ecco la lettura dell'editoriale del direttore di Libero, Maurizio Belpietro. Che Silvio Berlusconi perda facilmente la testa quando vede una sottana, non c'era bisogno che me lo spiegasse Ilda La Rossa. La strana malattia che lo deve aver colpito da piccolo mi era nota fin da prima che la rivelasse via ANSA la moglie Veronica, la quale a sua volta non credo l'abbia scoperta in tempi recenti, visto che nel libro intervista uscito anni fa descriveva il suo primo incontro col marito in modo inequivocabile, facendo capire che lui già 30 anni fa si atteggiava a Don Giovanni. Il cavaliere adora essere circondato dalle donne e, così come è bulimico da imprenditore e da politico, credo lo sia anche in fatto di conquiste femminili. Fosse per lui, le corteggerebbe tutte e a ognuna riserverebbe una parola, una collanina, un dono. Quando vuole far colpo, mi risulta non badi a spese. Raccontano che un giorno, volendo far capitolare una signora, abbia mandato un suo incaricato a suonare il campanello di casa della prescelta con in mano le chiavi di una fiammante Mini Cooper. La vettura, ovviamente, era parcheggiata fuori casa. Il cavaliere si era fatto delle amanti? E ad alcune ha pure offerto una casa occupandosi di pagare loro le bollette? Se anche fosse vero, ed è ancora da dimostrare, non credo sia un reato. Lo fosse, le patrie galere sarebbero piene. Immaginate quanti professionisti o industrialotti si fanno consolare da giovani fidanzate pur essendo regolarmente sposati e, in aggiunta, le ricoprono di regali. Devono risponderne in tribunale? Vabbè che questo è un paese cattolico, ma non mi pare sia uno stato etico dove esiste una sharia che regola i comportamenti in camera da letto. Né i carabinieri hanno istituito il nucleo antifornicazioni, pronto a introdursi in ogni alcova. E nonostante l'attivismo della Boccassini, per nostra fortuna il pull lenzuola pulite non esiste. Certo, ricoprendo un incarico d'una certa visibilità e avendo un discreto numero di nemici, Berlusconi alcune scappatelle se le potrebbe pure evitare, anche se gli scappano in casa propria. A forza di correre dietro a tutte, è matematico che qualcuna prima o poi lo inguai, facendolo finire sui giornali, come accadde con la Daddario, o in procura, come capita ora con Ruby e le altre. Una trappola o un incidente è statisticamente da mettere in conto. Però, nonostante tutto, nonostante le imprudenze che un presidente del Consiglio non si dovrebbe concedere, nonostante l'ingenuità di accogliere in casa propria chiunque, anche signorine di cui non si è neppure accertata l'identità o l'età, noi continuiamo a preferire il cavaliere. Se per tenere a bada la sinistra i maneggioni e gli spreconi devono pagare il prezzo di un capo di governo che tocca il sedere alle signore, non ho esitazioni. Meglio un vecchio porco. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale Ma per piacere risparmiateci lenzuola pulite, del direttore Maurizio Belpietro, pubblicato da Libero del 16 gennaio. Letture di Radio 24. Il referendum a Mirafiori per l'accettazione da parte dei lavoratori dell'accordo siglato tra Fiat e sindacati, con l'eccezione della FIOM, è passato di misura, poco più del 54%. Grazie al voto degli impiegati, si dice, facendo così intendere che una cosa sono gli operai e un'altra i colletti bianchi. Ma Silvio Francesco Oliva, quadro di Mirafiori che ha votato sì, non ci sta e scrive una lettera aperta al Corriere della Sera. Sono un impiegato professional della carrozzeria di Mirafiori e pur facendo parte di quella categoria di persone abituate più al fare che al parlare, mi sento chiamato in causa dalle polemiche che hanno seguito il referendum. Ho 47 anni e lavoro dal 1989 a Mirafiori, dove sono entrato come operaio e dove ho fatto tutto il mio percorso professionale fino a diventare gestore operativo. Credo quindi di poter a pieno titolo esprimere un'opinione sulla situazione. Il primo punto da chiarire è il fatto che il mio voto per il sì, come quello di tanti altri colleghi impiegati, è stato una scelta libera e non condizionata da nessuno. Io ho scelto di votare per la salvezza e la continuità della mia fabbrica, perché credo nella possibilità di rilancio e nelle capacità di continuare a fare automobili di successo, come è avvenuto per tanti anni nel passato. Rispetto chi non ha votato come me, ma non accetto che venga messa in discussione la validità del mio voto. Il secondo punto è che il mio lavoro non è meno importante di quello dell'operaio che lavora alla linea di montaggio. La mia attività è complementare alla sua, nel senso che senza l'attività organizzativa degli impiegati, la fabbrica non potrebbe funzionare. Quindi, nessun ruolo di serie B. Vivo anch'io nella fabbrica, faccio anch'io i turni e condivido tutte le situazioni della produzione. Abbiamo ruoli diversi, ma siamo tutti nella stessa barca. Il terzo punto è il presunto peggioramento delle condizioni di lavoro. Mi sento di dire che, a parte l'introduzione del turno di notte, non ci siano cambiamenti tali da far gridare allo scandalo. Se vogliamo ritrovare la competitività perduta, dobbiamo impegnarci a fare qualcosa in più per allinearci a quello che fanno i nostri colleghi in Europa. Del resto, credo che sia a tutti noto che il lavoro alla linea di montaggio è impegnativo. Senza un po' di sacrificio e di impegno in più, non si va da nessuna parte. Un ultimo punto, la questione dei diritti. Leggendo il testo dell'accordo, io non ho visto alcuna limitazione dei diritti individuali di nessuno. L'azienda continuerà a chiedermi il rispetto dei miei obblighi contrattuali e io continuerò a chiedere all'azienda di rispettare i suoi, come è sempre stato in tutti gli anni passati e come avviene in tutte le parti del mondo. Spero che al più presto si possa tornare alla normalità anche nella nostra fabbrica, che finisca il ricorso alla cassa integrazione e che le polemiche lascino il posto al confronto civile sui normali problemi di lavoro. Io a Mirafiori ho speso tanti anni della mia vita e mi sento impegnato a dare il mio contributo al suo futuro. Avete ascoltato la lettura della lettera aperta di Silvio Francesco Oliva, Io, impiegato alla carrozzeria, non sono un lavoratore di serie B, pubblicata dal Corriere della Sera del 17 gennaio. Fra qualche mese, probabilmente a luglio, secondo le previsioni, nascerà il bambino numero 7 miliardi. L'essere umano numero 9 miliardi potrebbe arrivare nel 2045. E poi? Poi forse la crescita demografica rallenterà senza mai raggiungere la cifra doppia di 10 miliardi di persone. Ma a parte le previsioni, la principale sfida per l'essere umano di fronte a questa crescita esponenziale rimane soltanto una: la distribuzione delle risorse. L'essere umano numero 7 miliardi dovrebbe nascere a luglio o al più tardi verso ottobre. E pensare che avevamo festeggiato il nascituro numero 6 miliardi appena 12 anni fa. Il futuro demografico appariva spaventoso a Thomas Malthus, che nel 1798, mentre la popolazione cresceva più velocemente delle scorte alimentari, profetizzò guerre e carestie. Ma poi sono fioriti i commerci internazionali e le sue matematiche certezze sono diventate irrilevanti. 2 miliardi di esseri umani più tardi, il futuro pareva spaventoso anche a Paul Ehrlich, che ridipinse un panorama malthusiano nel 1968 con il suo The Population Bomb. Ma invece è poi scoppiata la rivoluzione verde, semi migliori, fertilizzanti e pesticidi che hanno moltiplicato la produzione agricola, rendendo le sue statistiche irrilevanti. Ovviamente le profezie smentite del passato non offrono certezze per il futuro. Il cibo prodotto oggi non basterebbe se a tavola ci fossero 2 miliardi di convitati in più. È stato presentato a Parigi il nuovo rapporto AgriMond sul futuro dell'alimentazione in un mondo sempre più popolato. E il rapporto, curato da INRA e CIRAM, due istituti di ricerca francesi, dice che nel 2050 riusciremo a sfamare il mondo, ma ad alcune condizioni, che richiedono tutte, a parte l'ovvio contributo della scienza e della tecnologia, un alto livello di cooperazione internazionale, attualmente assente nella scena, come dimostrano i negoziati sul clima e il commercio. Il bambino numero 9 miliardi dovrebbe arrivare nel 2045. Ma il fatto importante è che, dicono i demografi, il bambino numero 10 miliardi potrebbe non nascere mai. Dopo quota 9,2 miliardi, la popolazione planetaria dovrebbe restare stabile o cominciare a scendere. Dopo anni di politiche draconiane come quella cinese di un figlio a famiglia e dopo anni di campagne per l'uso dei contraccettivi, ormai è chiaro che il miglior anticoncezionale al mondo è il reddito pro capite. La chiamano transizione demografica. È il passaggio di una società dalla fase preindustriale, alto tasso di nascite ma anche di mortalità, alla fase di crescita, con cibo e sanità migliori crolla la mortalità. La terza fase subentra quando il reddito cresce ancora e l'emancipazione femminile fa scendere le nascite. La quarta è quella di deflazione. Nascite ancor più basse e lunga aspettativa di vita. Le giovani coppie di Pechino o di Shanghai che vogliono vivere bene, diceva tempo fa Anya Zlotnik, direttrice della divisione popolazione dell'ONU, stanno abbassando la fertilità media della Cina, meglio e più rapidamente del Partito Comunista. Nella quarta fase c'è l'Italia. Nella terza il Brasile e l'India. Nella seconda l'Uganda e l'Angola. Ma nella prima non c'è più nessuno. L'ennesimo rischio malthusiano sarà evitato, ma sarà più difficile senza una vera governance mondiale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Saremo 9 miliardi, ma mangeremo tutti, di Marco Magrini, pubblicato da Il Sole 24 Ore, di mercoledì 12 gennaio.